arrivato l'autunno. Che grande novità, ma niente succede. Chissà di che si parlerà. Con acquazzone, valanghe e frana volontà a seppellire quei gigli. E al TG se ne parlerà.